Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda, tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, no, non incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai una calma più tigrata, segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da-da-da. Certi applausi ormai, son dovuti per amore non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram, vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-dam. Entrare, signorina. Buonasera. Cos'è che vuoi? Una nazionale. La posso aiutare, signorina? Ma sta buono che non gliela fai. Ma come non ce la faccio? Io posso alzare anche 80 kg. Una volta ho preso in braccio anche il mio babbo. Questo è da ridere. Ma perché no? Lei quanto pesa? Ma non lo so. Vuol vedere che alza anche lei? Ah, sì? Vediamo. Guardi, che razzo davvero, eh? Vediamo. Sciocco, lasciami, mettimi giù. Ce l'ho fatta. Ma sei forte. Visto? Adesso l'alzo un'altra volta. Non ci credo. Guardi. Vediamo, adesso basta. Mettimi giù, basta. Stia buona. Di no, pazzo. Ma cosa fai? Mi fai cadere, pazzo. Fammi cedere. Sei proprio pazzo, sai. Ma quello mi sono scosso la testa. Hai visto? Quattro volte ce l'ho fatta. Ma sì, ma sì, tesorino mio, vieni qui. Anche tu sei carino, ma sai, fammi impazzire solo un po', solo un po'. Cosa vuoi fare? So che, dai, sì, anche questo, tieni. Ma cosa ti fai? Soffri? Soffri, dai, eh? Va bene così? No, ma no. Continua. Amore, amore. Succhiare, stupido. Ma cosa fai? Non rompere. Lascia stare. Eh sì, che devo chiudere. Cos'è che volevi? Una nazionale? Ta, te la regalo. Fila. Grazie. Non ce la faccio. Ma levati allora. Dai, passa. Buonasera. Un vecchio errore. Vuole inseguirmi e incatenarmi e trascinarmi lì davanti ad ogni specchio per dirmi guardati. Io non mi guardo, giro lo sguardo, la sua memoria. Fin troppo questa storia è uguale che non ci sia o che ci sia. Ci provi lo specchio a inghiottire nell'apparenza. L'orgoglio è quello che voglio nella mia assenza. Vedi, ho pagato già il mio soldo di verità. Un vecchio errore pagato caro. Un gesto avaro, avevo il cuore duro allora, ero più amaro, ero più giovane. Niente di niente, spiega alla gente cosa vuol dire, amare l'amore senza mai fare che un errore. ci provi lo specchio a inghiottire nella sua acqua cupa. Non l'apparenza ma il volto che l'assenza sciupa. Vedi, vedi, ho pagato già il mio soldo di verità. Pagato caro, un gesto avaro, avevo il cuore duro, allora ero più amaro, ero più giovane. Niente di niente, spiegalo alla gente, cosa vuol dire, cosa vuol dire amare l'amore senza mai fare. Anche un errore.